cammina con te la mia anima. E si confondono i pensieri. Mi prendi la mano timida. Passano i giorni più neri, ma ora con te la mia anima.